giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Cabinovia continua a essere fonte di scontro dentro e fuori dall'aula del Consiglio Comunale. Due arresti per droga, Udine, sequestrati 30 grammi di eroina e quasi 4.000 euro. Si è aperta la tre giorni del villaggio Coldiretti a Udine. Questo pomeriggio vedrà la presenza del ministro Francesco Lollobrigida. Oggi la consegna degli Oscar Green, premio per i giovani imprenditori agricoli che in Friuli Venezia Giulia crescono. Prende forma la rete oncologica regionale, una messa a sistema di tutte le professionalità e dei servizi del sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia. Le previsioni per il weekend, fine settimana all'insegna del bel tempo, poi lunedì arriveranno i temporali. 12:31 e 3 secondi, ancora buongiorno da Lara Zani e Sebastiano Franco. Continua in Consiglio Comunale l'acceso dibattito fra maggioranza e opposizione sul progetto della cabinovia a Trieste. E intanto il sindaco di piazza decide di incontrare gli organi di stampa. Sentiamo. Non si possono condizionare in questo modo i lavori del Consiglio Comunale. L'ostruzionismo dell'opposizione è tollerabile fino a un certo punto, lo dicono ad alta voce i capigruppo di maggioranza insieme al sindaco di piazza, che sottolinea: siamo stufi ma non cederemo, andremo avanti così, non ho mai visto una cosa del genere. Dunque non ci sarà alcuna sospensione della discussione sulle osservazioni presentate dai cittadini e dal comitato No Ovovia. Sono 3.000 le osservazioni presentate, 37 quelle relative agli espropri, su cui si sta discutendo. Al momento sono state votate due controdeduzioni, mentre la terza è in corso. In apertura della seduta Francesco Russo ha proposto una sospensiva, ma la richiesta è stata respinta. I consiglieri di maggioranza non intervengono per non allungare i tempi e perché siamo convinti della bontà della delibera, ha ribadito l'assessora ai lavori pubblici Rodi. Il capogruppo di Forza Italia Polacco in conferenza stampa ha dichiarato: non possiamo accogliere la richiesta di sospensione, si creerebbe un precedente per altri temi. Stiamo portando avanti un iter obbligatorio, il regolamento tutela l'opposizione, ma la tutela non può compromettere l'operatività dell'ente. Non c'è un contrappeso adeguato per il proponente per garantirne il funzionamento. E poi Medao di Fratelli d'Italia ha chiesto responsabilità, ribadendo che la politica è confronto, non ostruzionismo. Questo modo di fare non è più tollerabile, è vergognoso per la città, secondo Medao. Insomma, nulla di fatto, la maggioranza non sospenderà l'iter, i lavori in aula sono ripresi subito dopo la conferenza stampa. Nel pomeriggio alle 17:30 è prevista la manifestazione del comitato No Ovovia in Piazza Unità. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. E come detto, il popolo No Ovovia scenderà di nuovo in piazza alle 17:30 davanti al municipio di Trieste per protestare. Il comitato ha deciso anche di offrire l'opportunità ai consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione, di spiegare le loro ragioni pro o contro il progetto alla città. In piazza sarà a disposizione una cornice a forma di cabina con microfono e verranno realizzati brevi video da un minuto in un format definito Ovo Voice. Un microfono aperto a tutte le consigliere e i consiglieri a partire dalle 17:30 per esercitare il loro minuto di trasparenza, scendendo in piazza a spiegare la loro posizione su variante 12 e cabinovia. La cronaca: due arresti per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti e sequestro di 30 grammi di eroina da parte della polizia di Udine. In manette due uomini dopo un controllo in via Iulia ad un'autovettura con a bordo un cittadino rumeno di 28 anni e un cittadino nigeriano di 30. Nei domicili dei due uomini trovata l'eroina, 2.400 euro fino ad un totale di oltre 3.700 quello sequestrato e un bilancino di precisione. I due sono stati arrestati e portati in carcere. Incendio questa notte verso l'1:40 di rotoballe di fieno depositate in un hangar di un'azienda agricola a Villesse. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme evitando il propagarsi agli altri due capannoni dell'azienda e hanno iniziato la bonifica mettendo in sicurezza tutta l'area. Le operazioni si sono concluse alle 8:30. Intercettato dalla polizia stradale all'altezza del casello di Roncade un carico di 24.000 litri di alcol etilico proveniente dalla Polonia, spacciato per disinfettante. Per i tre responsabili è scattata la denuncia per il reato di contrabbando, oltre al sequestro del prodotto alcolico unitamente all'autoarticolato. L'alcol etilico prelevato dalla Polonia e introdotto in Italia attraverso il valico di Tarvisio risultava acquistato da una società con sede a Reggio Calabria ed era destinato in una località del Foggiano. Dei tre indagati, due sono di nazionalità polacca e uno è italiano. Andiamo a Udine, dove si è aperta la tre giorni del villaggio Coldiretti, che questo pomeriggio vedrà la presenza del ministro Francesco Lollobrigida. Questa mattina la consegna degli Oscar Green, premio per i giovani imprenditori agricoli che in Friuli Venezia Giulia crescono, in controtendenza rispetto a quanto avviene a livello nazionale. Il villaggio Coldiretti si apre a Udine con un messaggio chiaro, pace, scritto che alcuni giovani associati hanno portato sul palco di Piazza Libertà. L'incertezza geopolitica in aumento dopo gli attacchi mirati di Israele all'Iran e l'incognita dazi pesano sulle prospettive anche dell'agricoltura. È per questo che il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, si schiera apertamente contro il piano di riarmo e di aumento della spesa militare di cui si sta discutendo in ambito europeo e NATO. Noi riteniamo che invece queste risorse dovrebbero essere destinate ai temi di carattere sociale, ai temi di aiuto vero grazie al cibo, a quelle popolazioni che ancora oggi si trovano in difficoltà. L'agricoltura e l'agroalimentare possono essere un motore di sviluppo e di pace nel mondo. L'evento udinese è l'occasione per consegnare gli Oscar Green, i premi per i giovani imprenditori agricoli che hanno presentato progetti innovativi. Secondo uno studio di Coldiretti sono 50.000 le imprese agricole guidate da giovani in Italia, cifre in calo anche per una questione demografica. Ma il Friuli Venezia Giulia è in controtendenza con le sue 872 imprese, l'unica regione che insieme al Trentino Alto Adige ha più aziende giovani oggi che 5 anni fa. Tra le nuove leve c'è Soraya Zorzettig, finalista degli Oscar Green, che con la sua azienda vitivinicola Cividale ha aperto la vigna ai turisti attraverso il glamping, una modalità di pernottamento in natura ecosostenibile. Cerchiamo di offrire a chi viene a trovarci qua in Friuli un'ospitalità a 360 gradi. Qual è il senso di questo progetto? Riuscire a far conoscere il nostro Friuli, che non è molto conosciuto sia fuori dall'Italia che anche qua in Italia. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Stato di agitazione di tutta la dirigenza medica e sanitaria di Asugi, proclamato da UIL, FPL, CIMO e ANAO. Una decisione inevitabile, si legge in una dura nota sindacale a fronte dell'inaccettabile violazione dell'accordo sull'unificazione dei fondi firmato a dicembre 2024 e mai rispettato dalla direzione generale. Le fondamenta dell'intesa, approvazione del regolamento orario, definizione delle sedi di assegnazione, valutazione oggettiva degli organici, rendicontazione dell'uso dei medici specializzandi sono rimaste lettera morta e l'ennesimo segnale di una gestione arrogante, opaca e autoreferenziale che firma gli accordi solo per guadagnare tempo e poi li ignora sistematicamente, si legge ancora. Le organizzazioni sindacali hanno concesso un termine ultimo di 15 giorni per ricevere un cronoprogramma vincolante e dettagliato sull'attuazione degli impegni. Scaduto tale termine, ogni forma di relazione sindacale sarà interrotta e saranno attivate tutte le azioni di mobilitazione e tutela legale previste. Ancora sanità, prende forma la rete oncologica regionale, una messa a sistema di tutte le professionalità e dei servizi del sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia a supporto delle persone che hanno un cancro. Il primo passo è stato l'avvio pochi giorni fa a Udine dei corsi di alta formazione, 4 gruppi di lavoro con 72 specialisti di varie discipline mediche indicati dalle aziende sanitarie del territorio. Obiettivo: rendere pienamente operativa entro il 2027 la rete oncologica regionale, un nuovo ecosistema capace di rispondere meglio alle esigenze mediche e non solo dei malati di cancro. Spiega il direttore del coordinamento della stessa rete oncologica, Giampiero Fasola. È un sistema coordinato, organizzato di relazioni tra professionisti che appartengono a diverse discipline, a diversi ospedali, a diverse aziende, che ha sostanzialmente un compito, quello di prendere in carico il paziente oncologico e cercare di guidarlo attraverso appunto i nodi della rete. L'obiettivo è tenerlo il più possibile vicino a casa quando è possibile, orientarlo alle sedi in cui eventualmente vengono concentrate alcune attività e nell'insieme svolgere le attività il più possibile allineate allo stato dell'arte della disciplina. Si mira anche a democratizzare l'accesso alle cure. Si nota un gap in rapporto a livello culturale e anche a livello di reddito dei pazienti in generale nei servizi sanitari pubblici, e le reti cliniche sono proprio la risposta che i servizi sanitari pubblici stanno dando all'aumento della complessità delle cure. Ormai la cura di un tumore è sempre più complessa, richiede sempre più discipline, molte interdipendenze, molte fasi difficili di affiancamento tra diversi professionisti. Questo, si è visto, viene fatto meglio se c'è una rete organizzata. Quale ruolo per il CRO di Aviano in questo contesto? Il primo è quello di gestire tutta l'attività oncologica dell'azienda del Friuli Occidentale. Il secondo è quello di fare da riferimento regionale per i sarcomi e i tumori rari, e poi c'è un livello nazionale, il CRO è inserito anche nella rete degli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico nazionale. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Fine settimana l'insegna del bel tempo, siamo appunto alla pagina meteo, poi lunedì arriveranno i temporali, le previsioni meteo dell'ARPA Friuli Venezia Giulia con Livio Stefanutto, sentiamolo. Sarà ancora il tempo determinato dalla presenza durante il ciclone sul Mediterraneo e sull'Italia, che manterrà essenzialmente tempo bello, stabile e caldo, quindi sabato cielo sereno sul Pelore Costa, in montagna nel pomeriggio un po' di variabilità, specialmente sulla Carnica al confine con il Cadore. Venti di brezza sulla costa, temperature massime fino a 32-33 gradi in pianura. Domenica inizialmente bel tempo, cielo sereno, poco nuvoloso, poi nel corso della giornata in montagna avremo dei rovesci, delle piogge, dei temporali. Temperature in pianura ancora tutto sommato alte per domenica, ancora con valori attorno ai 32-33 gradi, sulla costa sempre venti di brezza. Poi da lunedì e martedì l'arrivo di una saccatura provocherà un peggioramento del tempo con delle piogge e dei rovesci anche su pianura e costa, ma successivamente il resto della settimana tornerà a dominare l'anticiclone. E ora uno sguardo al tempo oggi, cielo sereno su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste Pordenone 28 gradi, a Udine Gorizia 29, a Piancavallo 21 gradi e mezzo, a Tarvisio e Sappada 22, a Forni di Sopra 24 e mezzo, a Tolmezzo 26, sul Monte Lussari 18 gradi, sul Monte Zoncolan 19, a Grado e Lignano 29 gradi. Alla LEF, la seconda edizione del Forum Ambiente Nord-Est, in cui si parla della gestione sostenibile di acqua e rifiuti nell'era della transizione ecologica. All'evento partecipano istituzioni, accademici e rappresentanti delle principali aziende di settore. Sentiamo. Proseguire il percorso tracciato per la costruzione di una società multi-utility unica e garantire così servizi di qualità verso una transizione ecologica efficace e una pianificazione condivisa, eliminando così le frammentazioni. L'assessore all'ambiente regionale Fabio Scoccimarro in un videomessaggio rilancia l'unione nella gestione, tra le altre cose, di acqua e rifiuti. Lo fa il Forum Ambiente Nord-Est, ospitato anche quest'anno dalla LEF di San Vito al Tagliamento. Un primo passo concreto, ha spiegato Scoccimarro, la fusione tra Idrogea e CAFC, sostenuta dalla regione con 4 milioni di euro. Al forum tanti passaggi tecnici su gestione sostenibile di acqua e rifiuti, temi soltanto apparentemente separati. Andrea Delle Vedove, presidente dell'autorità unica per i servizi idrici e rifiuti. Noi come AUSI stiamo cercando di essere il filo conduttore per questo momento storico, che vede anche delle aggregazioni, che vede la possibilità di unire le forze e gli intenti per ottimizzare i servizi. Oltre a preservare la ricchezza acqua, anche dobbiamo preservare attraverso appunto le strutture di depurazione e tutte le strutture di fognatura, le reti di controllo idrico, le perdite idriche. Lorenzo Bardelli, direttore di Visione Ambiente Arera. Il riciclo è l'obiettivo ultimo a cui si vuole tendere, favorire che la materia comunque recuperata abbia ancora una nuova vita e la possibilità di indurre anche degli effetti del consumo che siano assolutamente più sostenibili nel lungo periodo, che tutelino anche le materie prime, però ci sono tutte le fasi anche a monte dell'attività di riciclo che sono fondamentali, così come sono fondamentali tutte le attività collaterali all'attività di riciclo che, laddove non si riveli possibile, comunque generi costi aggiuntivi più contenuti e più sostenibili. Acqua e rifiuti sono gemelle diverse sia sul piano economico che su quello regolatorio. Per renderne efficiente il ciclo è fondamentale pensare all'innovazione del sistema, specialmente sotto il profilo tecnologico, a partire dalla raccolta dei dati, miniera d'oro sfruttata ancora molto meno rispetto al potenziale. San Vito al Tagliamento, Andrea Saula, TGR Friuli Venezia Giulia. Completato il rinnovo della flotta di treni sulla linea regionale Trieste-Venezia. Tutti i treni veloci del regionale circolanti sulla linea Trieste-Venezia-Via Portogruaro verranno effettuati con 7 convogli doppio piano di ultima generazione. Un'operazione di rinnovo che è stata illustrata all'assessore regionale Cristina Mirante da parte del direttore regionale Trenitalia Elisa Nannetti. L'ammodernamento della flotta del regionale è previsto dal programma di investimenti complessivi del contratto di servizio con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, pari a circa 400 milioni di euro, un piano che include 266,5 milioni a carico di Trenitalia. Le consegne proseguiranno nel corso di quest'anno e nel 2026 per un totale di 11 treni ibridi monopiano e 14 doppio piano. I treni monopiano potranno trasportare fino a 12 biciclette, mentre i doppio piano avranno 18 postazioni. Oggi è stato presentato un orto rialzato realizzato da un gruppo di minori stranieri non accompagnati, accolti dalla comunità Jaschi Dom grazie ad un progetto della cooperativa sociale agricola Monte San Pantaleone nell'ambito del bando Contrasto alla fragilità sociale 2024 promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste. Coltivando l'integrazione a scuola di giardinaggio è il titolo dell'iniziativa, che nasce dal desiderio di coinvolgere i minori stranieri non accompagnati attraverso un percorso di acquisizione di competenze nell'ambito del giardinaggio. Lo spiega Giuditta Lazzarini della cooperativa sociale agricola Monte San Pantaleone. Gli abbiamo poi insegnato alcuni aspetti del lavoro del giardiniere, che è quello di cui ci occupiamo noi, quindi proprio mani nella terra, non lo so, abbiamo fatto diserbi, abbiamo creato aiuole, diverse potature, e dopodiché abbiamo costruito degli orti rialzati, ce li hanno costruiti proprio loro grazie a un giardiniere che ha avuto esperienza ventennale come falegname, e poi abbiamo fatto la spesa degli ortaggi assieme ai ragazzi, la messa a dimora delle piantine, e gli abbiamo insegnato come mantenere gli orti e raccogliere i prodotti. In un futuro per loro potrebbe rappresentare anche un lavoro. Esatto, gli abbiamo dato delle goccine di nozioni per cui un domani potrebbero andare più a fondo e lavorare. È importante anche il fatto che abbiano lavorato in squadra, insomma uno scambio intersociale anche questo. Sì, no? Assolutamente, sia tra di loro, perché i ragazzi poi vengono da nazioni diverse, quindi collaborare tra di loro, collaborare con noi come dipendenti dell'agricola, lavorare, e poi c'è stata appunto la piantumazione degli ortaggi con i bambini del doposcuola di Jaschi Dom, per cui uno scambio anche generazionale. La pagina degli spettacoli debutta questa sera alle 21.30 e sarà in scena fino al 13 luglio sotto l'inconfondibile Grand Chapiteau, il Cirque du Soleil con Allegria in a New Light, una delle sue produzioni più iconiche, completamente reinventata per il pubblico contemporaneo. Al centro della narrazione un regno che ha perso il suo re e si ritrova diviso tra la nostalgia per l'ordine passato e il desiderio di cambiamento. Per la musica classica, un'opera americana del Novecento chiude la stagione del Teatro Verdi di Trieste. Si tratta di Candide di Leonard Bernstein in un nuovo allestimento per la regia di Renato Zanella. Americano è anche il direttore d'orchestra, Kevin Rhodes. Sipario alle 20, le repliche andranno avanti fino a domenica 22. Sempre per la musica classica, stasera il primo dei concerti dell'Orchestra Sinfonica Giovanile Mahler, che è in residenza a Pordenone, dirige Christian Blacks con musiche da Bach al Novecento, alle 20.30 nel Duomo di Venzone. Altri appuntamenti: la Calicanto Band e il Conservatorio Tartini Orchestra Jazz danno vita musicalmente insieme, un concerto capace di avvicinare due mondi apparentemente distanti, con i ragazzi guidati e seguiti dal maestro Fabio Clary, pianista e fisarmonicista jazz, e dal maestro Mirko Rubegni, trombettista e direttore d'orchestra. A Trieste alle 18.30 nella cornice della Sala Luttazzi del Magazzino 26 al Porto Vecchio. L'Associazione Culturale Tina Modotti organizza il concerto Lunga Vita allo Spettacolo, Canti per Ricordare, Canti per Denunciare, alle 20.30 a Trieste in via Ponziana 14. Per la rassegna Sotto il Cielo di San Giacomo 2025 a cura di Teatro Incontro, Novecento, il pianista sull'oceano, brani tratti dall'opera di Alessandro Baricco, regia di Carla Manzon, a Trieste, ex lavatoio di San Giacomo, alle 19. Per il Festival Terminal tornano i Los Putos Machinas ad aprire il Festival a Udine nel Parco Moretti a partire dalle 20. A seguire alle 21.30 nell'arena del Parco Moretti prenderà il via il concerto della Northeast Ska Jazz Orchestra. Il coro Amici per Caso, diretto dal maestro Fabio Zucca in collaborazione con Gabriele Pistrin, si esibisce in Uno Spettacolo per la Vita. La serata, a ingresso gratuito, è promossa per raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica di Fondazione Teleton sulle malattie genetiche rare, a Trieste al Teatro Franco e Franca Basaglia, nel Parco di San Giovanni alle 20.30. A Taiedo di Chionsi, Papu in The Best of Off con Pablo Perissinotto in piazza 4 Novembre alle 20.45. Allestito a Sacile il nuovo padiglione sonoro realizzato come camera acustica itinerante, che dopo il primo ciclo di concerti nella città dell'Ivenza approderà anche a Tarvisio, Pordenone, Polcinigo e Trieste. Oggi il debutto ufficiale alle 20.45 al Parco Rossetti, dove la camera acustica resterà fino al 29 giugno. A inaugurare lo spazio il concerto del duo spagnolo Carles e Sofia Piano Duo. La Biblioteca Civica Ortis organizza una vendita straordinaria di libri in concomitanza con Bloomsday Trieste 2025, il book market di Biblioteca Civica Ortis. Al piano terra di Palazzo Biserini, sede storica della biblioteca dove oggi è allestito il Museo della Letteratura, e all'Infopoint Bloomsday in piazza Ortis 4, si potranno acquistare a prezzi simbolici libri usati o da riscoprire provenienti dallo sgombero dei depositi della Ortis. Gran parte dei volumi saranno proposti a un euro. I proventi delle vendite saranno impiegati in acquisti di libri per il rinnovo delle raccolte librarie della Ortis. Il book market si svolgerà oggi dalle 15 alle 18, domani e domenica dalle 10 alle 18 e lunedì dalle 10 alle 14. È in programma oggi una serata di promozione di prevenzione del diabete e delle malattie correlate in forma di talk show con note di intrattenimento e spettacolo al Teatro Sala Bisone di Fiumicello, Villa Vicentina, con inizio alle 20:30. Per Lignano Noir oggi l'incontro Giallo Friuli, un appuntamento speciale dedicato alla narrativa gialla e noir del nostro territorio. Protagonisti della serata saranno gli scrittori Pierluigi Porazzi, Nicola Schert e Barbara Cimbaro, che dialogheranno con Cecilia Scerbanenco e con il giornalista Giampaolo Polesini. Nel cubo della cultura, allestito tra gli uffici spiaggia 6 e 7 a Sabbia d'Oro alle 18:30. In chiusura una notizia di sport: Filippo Rizzi centra il minimo per gli Europei Juniores. L'ostacolista friulano, classe 2006, tesserato con l'Atletica Malignani Libertas Udine, ha centrato la qualificazione per i prossimi campionati europei Under 20 in programma in Finlandia dal 7 al 10 agosto. Il giovane talento, allenato da Ivan Zadro e Andrea Alterio, si è imposto con un 14-12 nei 110 ostacoli dei campionati regionali junior e promesse svoltisi a Modena. Il giornale si chiude qui, sono le 12:51 e 40 secondi, grazie alla collaborazione tecnica di Eugenio Giuffrida e Mauro Cumin. In segreteria Samantha Gon, Dalla Razzani e Sebastiano Franco, l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.